Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. State a vedere. Attaccare! L'uscita della Grecia dall'euro non è mai stata un'opzione. Faccio gli auguri al popolo greco perché con orgoglio e passione rivendichi la sua libertà e di istituzione e democrazia a tutta Europa. Se fossi greco voterei no. Renzi, tanto per cambiare, a fare l'inchino alla Merkel, che ormai gliene ha fatti talmente tanti che neanche Schettino è così capace di inchinarsi a una nazione straniera. Adesso tutti insieme daremo anche, come ho detto alla UBO stamattina, una strategia e una visione per l'Europa basata più sulla crescita e meno sulla burocrazia. Senti, è un po' più veloce, no? Caloca! Questo orca loca, un po' più veloce, no? Era la traduttrice dell'incontro bilaterale. Un po' più Renzi. Veloce, no? Caloca! Fatiche da traduttrice. C'era Renzi che parlava dalla Merkel. Oh, ora il paradosso è questo: si è rovesciata la situazione. Il referendum indetto dalla Grecia per chiedere sì o no, o meglio no o sì, se vi piace, cari greci, l'accordo che l'Europa ci propone. Il paradosso è che ora è la Merkel che lo vuole. Voi dite, ma come la Merkel che lo vuole? Sì, perché Tsipras ha cominciato a dire, no vabbè dai, trattiamo Angela, sì vabbè ho indetto il referendum, però intanto, no, adesso federe risultato referendum, afere voluto referendum, ora federe risultato referendum di domenica. Poi forse vedere che fare. Ragazzi, la Merkel li mette in riga tutti. Tutti in riga e Renzi davanti un po' inchinato, come dice la Meloni. Renzi quando va dalla Merkel, ragazzi, gli hanno detto ma... la Grecia, sono più preoccupato del terrorismo che dell'IVA sulle isole greche. E adesso la Merkel, anche perché la Merkel ha una strategia precisa, questo almeno raccontano alcuni giornali, e cioè questa: vinceranno i sì, quindi perde Tsipras, Tsipras a casa. E si tratta con un governo un pochino più... Già si fanno i nomi dei coloro che formeranno il governo che succederà a quello di Tsipras, no? Quindi via Tsipras, via i Varoufakis, e si tratta con persone un po' più concilianti. Con quelli che non sono come li ha definiti Panorama. Oggi la copertina di Panorama la tocca piano, come si suol dire, mette la foto di Tsipras e di Varoufakis con il naso rosso e il titolo Pagliacci. Lo so che molti italiani hanno anche un vero dramma, assistono con grande dramma e partecipazione a questa vicenda greca, tutti preoccupati per il popolo greco e portandosi dietro moltissimi italiani una domanda fondamentale: potrò andare in vacanza in Grecia, nelle isole, quest'anno oppure no? Non lo so. La verità, che c'è poco da ridere, è che, come dico da giorni, chi paga è il popolo. Il popolo greco, i pensionati senza bancomat possono ritirare 120 euro ogni 3 giorni, non di più. Fanno 40 euro al giorno, non di più. In questo teatrino dell'assurdo, in cui tutti hanno torto, chiaramente la situazione si è ingamberata talmente che tutti hanno torto, gli sfigati sono quelli del popolo, come sempre, che pagano. Le 6.33 minuti, questo è 24 mattino. Intanto saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, con anche... Eccolo qua! Vincenzo, io ti ammazzerò! Sei troppo stupido! Il nostro grande Vincino! Eccoci qua, come va? Come va? Bene, alla grande! Oggi Vincino mette sul foglio... sul foglio la vignetta di un abbarbicato sulle colonne del tempio greco di Agrigento, ad Agrigento a difendere ogni colonna di tempio greco, perché ce le rubano, no, ce le riprendono e ce le rivendono, Vincino. No, ma è difendiamo la nostra storia. Difendiamo la storia greca, la storia greca. Adesso ci dirai che ne pensi. Che c'è? Non ti si sente, Vincino? Dove sei? Dove sei? Arrivavano questi barconi da Corinto, da Tebbe, da Atene. Ci civilizzavano, magari. Allora, caro Vincino, ti voglio far salutare, ti voglio presentare Alessandro Robecchi, è un comunistone così. Come no. Buongiorno a tutti, ciao Vincino. Colleghi di giornale, certo. Grande giornale rivoluzionario. Che lì, il grande cuore, sì. Chi combinava più danni a cuore, Robecchi o Vincino? No, io li sistemavo, sono loro, sono gli artisti tutti. Che fanno casino. Gli artisti fanno casino. La faccia come il culo, però era sua. Attenzione, dobbiamo svelare un grande segreto. Questa copertina, che è talmente attuale che qualcuno me la manda ancora su Twitter, hanno la faccia come il culo, l'hai fatta... Hanno la faccia come il culo 3, volte. No, era tutto come il conclave, lavoro collettivo. Usciva il titolo, ma non si deve sapere chi l'aveva eletto, diciamo. Sì. Ecco. Lavoro collettivo. Quindi sì, tu mi sconosci. No, mi metto nella squadra che ha fatto quel lavoro collettivo. Vabbè, un lavoro collettivo, il libro cuore, vabbè, d'altronde comunistoni, giusto così. Qua, sì. Bellissima letteratura, da dove fu fondata la neolingua italiana. Bravo Vincio. Allora, io devo dire, ho fatto una delle esperienze che consiglio a tutti al mondo: andare in moto per Roma con Vincino che guida, o in scooter. Tu ridi. Sport estremo. Venerdì l'ho fatto, e è bella perché è come il Gregory Peck de Noantri che ti porta in giro per Roma e ti fa vedere, ti racconta qui è successo questo, qui è successo quest'altro. Il Circo Massimo, tutto, vabbè, dove c'erano 150 grillini per una manifestazione. Come 150 grillini? Mamma mia, è già partito. Eccolo lì. Da 2 giorni do i numeri, devo dire. Da 2 giorni dai numeri, in che senso? No, c'ho lo scanner rotto, non so come fare, guarda. Non puoi più fare vignette. Gli scanner rotti siamo disastrati. Vabbè, ma c'hai la penna, Sì, c'ho la penna, ma la penna come trasmetto il pensiero al mondo? Tipografie, fax, come ai vecchi tempi. Esatto, mandagli un fax. Se non ce l'ho più da 20 anni, questo. Mandagli una lettera, una lettera. Un disastro. Vabbè, allora vorrei sapere il vostro parere, il vostro editoriale. Comincia Alessandro Robecchi, dai. stai? Tu con chi stai? Tu con chi stai? Con Tsipras o con la Merkel? Ma io sto con i greci, dai. Eccola, eccola. Sta con i greci. Ma mi sembra evidente. No, con i greci anch'io, no, col popolo greco che è vittima anch'io. Il riassuntino che hai fatto tu all'inizio, Milan, è illuminante. Cioè, tu ci hai detto che a Berlino stanno cambiando il governo greco. Un po' è così. Cioè, stanno cambiando. Se non avesse fatto il referendum e magari rischia di perderlo, se lo vince, sì, per esempio. Ma io vorrei dirti questo: faccio una rivelazione giornalistica poderosa. Sì, sì. Diciamo così: i debiti della Grecia non li ha fatti Tsipras, no, questo li hanno fatti i governi socialisti e conservatori che ci sono stati prima di lui, che sono stati molto, molto ben tollerati, incoraggiati. E appoggiati dalla signora Merkel e da tutto il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea. Sì, ma io, ma tu la vedi così, cioè, nel senso, paga l'ultimo che arriva. Eh sì, perché i debiti italiani chi li ha fatti? Esatto, cioè è sempre la stessa balla, i debiti li ha fatti qualcun altro, ho capito, ma siamo qua, allora c'è una riga, cioè, nel senso, il concetto è, Alessandro, è che ogni tanto una riga va tirata, ma nel senso anche noi paghiamo i debiti, appunto, degli anni 80 della Democrazia Cristiana. Questa domanda sarà un caso che la riga viene tirata in modo così drastico quando c'è la sinistra al potere? Quando c'è da due anni il governo. Vabbè, questa è la domanda che fa Robecchi. Effettivamente da due anni, da quattro mesi. Si propone stupidaggini una dopo l'altra, scusami. No, caro amico mio Robecchi, te le leggi le proposte di Varoufakis? Sì, però purtroppo mi leggo anche quelle del Fondo Monetario. Vabbè, ma è chiaro che ci sono due. Adesso ci sono due, teste d'ariete che si spaccheranno la testa. E si è arrivati a questa situazione sbagliata, perché poi, lo ripeto, è sempre il popolo che paga. Alla fine saranno i pensionati che non hanno più soldi da ritirare al banco. Ma non è Varoufakis che rimarrà con le pezze al culo. Ecco, diciamolo francamente. Non è Varoufakis e neanche Tsipras. Tanto Varoufakis ha già detto che va in America e gli pagano di più le lezioni universitarie, insomma, non è, va in giro con la sua moto, non è che avrà problemi, no? Però Vincino, per te è colpa quindi dei greci, di Tsipras e Varoufakis, hanno tirato troppo la corda. È colpa di questa situazione così, così com'è. Allora, noi dobbiamo fare un'Europa piccola là, di questi qua, stati del nord e via, e noi tutti fuori, tranquilli, felici. Gli stati del nord fanno parte dell'Europa. Lo sai qual era il periodo più bello della Sicilia? Quando c'erano le ammelire. Non sai cosa sono le ammelire? Gli americani, quando arrivavano gli americani, certo. Esatto, le ammelire. Le ammelire. Tu torneresti alla ammelira, dire la verità. Ma io posso dire una cosa veloce, piccola, piccolina. Ma se l'Europa, questo meraviglioso colosso della democrazia mondiale, questo tempio della democrazia, una balla totale, non riesce a risolvere un problema che è il 2% del suo PIL. Esatto. Se non riesce a risolvere questo, l'Europa non ha motivo di essere l'Europa. Oh, ma parli come Prodi. Ma non oggi non è mai stata l'Europa. No, ma aspetta, Robecchi parla come Prodi, sono le stesse parole usate da Prodi oggi in un'intervista a Repubblica. Dice, ma stiamo parlando di un paese che ha il PIL del Veneto, ma forse neanche. È incredibile che Prodi parli come Robecchi. No, infatti, ma ti ha consultato ieri? No, non ci siamo sentiti. La Grecia è uguale alla Sicilia, no? Noi Sicilia vogliamo andare in pensione a 35 anni, vogliamo avere 100.000 cose là, quella foresta, le foreste, 100.000, 150.000. È un po' così. Vogliamo essere tutti, vogliamo che ognuno possa badare i suoi figli, andare in pensione, andare in cose, quella partita. Un po' è così, hanno vissuto nell'Eldorado per un po' di decenni. Ma voi sapete di tutti i tagli che sono stati fatti, imposti, chiesti alla Grecia. L'unica cosa che non è stata tagliata, che cosa? La spesa per gli armamenti. E voi sapete da chi compra le armi la Grecia? Dalla Germania e dalla Francia. Attenzione, complottone, complottone. Ma la guerra la Grecia. No, non è un complottone, è un dato di fatto. Ma scusami, allora, caro Robecchi, la Grecia con chi aveva la guerra? Beh, insomma, la con la Turchia, aveva la guerra con la Turchia, aveva Cipro divisa a metà, no, era un fronte di guerra con la, peraltro la Turchia che finanzia l'ISIS. Niente, no. Il problema è che stiamo rompendo un'amicizia decennale tra Vincino e Robecchi. Questa, non questa è assolutamente mai rotta, guarda. No, tra l'altro, aspetta, Vincio, c'è un consiglio. Come facciamo la guerra alla Turchia senza un'arma? Fermati, Vincenzo, fare la guerra alla Turchia. C'è un consiglio fondamentale, Vincenzo, una foto e risolvi il problema dello scanner che non c'è, questo ci suggerisce un ascoltatore, fai una bella foto alle vignette con lo smartphone e la mandi via mail, capito? E non vengono bene, compriamo uno scanner, facciamo una colletta, un crowdfunding invece di darle alla Grecia. Lo deve fare l'amministrazione del foglio con cui sono in trattativa finale, ma non... Amministrazione nel foglio, dottor Arpe, comprate uno, ecco, dottor Arpe c'ha tanti soldi, ha una banca, lui non mi conosce. Dottor Arpe, compri uno scanner nuovo a Vincino. Comunque le vignette di Vincino vengono male anche con lo scanner, eh. Ecco, Robecchi ha ragione, siamo veramente alle accuse trasversali. Tu quello che tornavo dalla Russia e tu era fuori, guarda, pazzesco, arriva questo aeroplano nella pista di Linate, sì? Di Linate, dal finestrino il pilota esce fuori dai fogli e c'è uno sotto che li prende. Ma chi è? Robecchi che tornava dalla Russia. Vincino tornava dalla Russia, noi avevamo il giornale aperto, mancava solo fatto il servizio, io e Mannelli, allora io ero per Mannelli niente, era al delirio, avanti via il delirio, per quello che è perdente, io ero per Yeltsin, sì, per il vincente, per Yeltsin, io ero per la democrazia e Mannelli era per la restaurazione del comunismo sovietico. Vincino era per la democrazia di Yeltsin. In quel momento là, come dire, chi salì sul carro armato era Yeltsin. Vabbè, comunque Giorgio ha sentenziato, Giorgio da Padova: Vincino ti amo, Robecchi sei un dinosauro dei comunisti, neanche un comunista, un comunistauro. Però Vincino, ti devo fare la domanda, attenzione, ti devo fare la domanda, Vincino, la domanda è secca: c'è Beppe Grillo che va domenica da Siriza, da Tsipras? A Tsipras a votare? No, non va a votare. Ma fa che cosa? Fa danni pure là. No, non lo so. Hanno riammesso la cosa, la portavoce. Hanno rifatto votare la votazione, hanno messo la portavoce, il controllo di nuovo è ferreo di quegli imbecilli là. No, ma che imbecilli? Ma sì, hanno riammesso la portavoce, l'avevano espulsa, adesso voteranno meglio. Qua comando io, vaffanculo. Adesso voteranno meglio la seconda volta, no? No. Alla seconda volta dovranno votare meglio. Le regole dei club, del country club, sono queste: si vota e via, finita. Vabbè. Quindi siamo passati dalla tragedia del popolo greco alla portavoce delle Sì, perché Vincino porta avanti questa battaglia. Il popolo greco senza l'Europa andrà alla grande. Alla grande. Come era alla grande nel dopoguerra, guarda. Alla grande, senza l'Europa. Vabbè, dai, andiamo al traffico, perché qua Vincino ci ha proposto che tutti i paesi nordici dovrebbero rimanere nell'Europa e noi cialtroni invece no, noi ci mettiamo anche noi. Però vorrei capire un attimo che ne pensate di Renzi tra poco. Crivio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. 24 mattino. Milan, abbassa con questo cazzo di Marino, dai, veramente è una cosa vergognosa. Ciao signor Milan, sei proprio in un bello mastino napoletano. A Milan, si continua a parlare di Grecia, parliamo della Grecia, di cose serie. Ma è l'isola greca, come cazzo si fa? Milanino, ti volevo dire che voi siete una massa di falsi perbenisti e falsi moralisti. E inoltre, voi intellettuali avete creato un popolo di invertebrati. A Gino, oh no, io lo amo, Gino, no, per carità, no, via. Vincino? Caro Vincino, il Movimento 5 Stelle e quelli che votano 5 Stelle sono più sani di te e di tutti i deficienti che ti ascoltano. Io compreso, perché sarebbe bene che quando ci sei te, Milan e compagni, non li ascoltassi proprio. Oh, ecco, Vincino, adesso parte la rivolta, Stai attento, stai attento. Miserabili 5 Stelle. Oh, perché stai attento, adesso mi stai togliendo anche gli ascoltatori del Movimento 5 Stelle, No, perché allora comunque questa è bella. Fulvio da Roma, mi auguro che la nipote di Vincino sposi Di Battista. Questa è bellissima, Vincenzo. No, ma neanche tua nipote, sei una tua figlia. Ti dice: ma non hanno figlie, ti dice figlie. Ti, no, se tua figlia ti dicesse: mi sposo con Di Battista. Ma io contento, quello c'ha uno stipendio sicuro, guarda, sarà deputato e ministro per i prossimi 25 anni, io contento per lei. Di Roma, tutto, non c'è. Fai il re. Però forse ci saranno dei cattivi rapporti tra genero e suocero, a quel punto. Non lo so. Di che cosa parla Vincino quando parla d'amore? Esatto. Quando quando ti ha raccontato che quando ero bambino andavo dal nonno, mia mamma mi faceva buttare tutti i volantini che io trovavo di Stella e Corona perché il nonno era socialista e non li voleva vedere. Allora che c'entra questo? E io soffrivo perché mi piacevano moltissimo i volantini di Stella e Corona, erano tutti pieni di ritratti di Cavour, Garibaldi. Ma cosa c'entra? No, non lo so, era così un ricordo, ferro vecchio, ogni tanto lui ci dà. No, ma io sono più dinosauro di tutti. Si vive qua. Vabbè, ma insomma, caro Robecchi, Renzi fa bene andare dalla Merkel a dire: mi preoccupa più il terrorismo dell'IVA greca. C'è sempre un problema più grosso di cui occuparsi, sì, quando non si vuole occuparsi di quello lì. Poi Renzi va dalla Merkel perché Renzi sta con chi vince. Se ci fossero i venusiani che comandano l'Europa, lui andrebbe dai venusiani. Dai, ecco. Sì, ma non credo che questo. Però adesso tu sai che io non sono tenero col ragazzo, diciamo. No, però, non tanto. Però questa è anche realpolitik. Di solito quando quando ci sono due grossi debitori, uno dei due sta col creditore, diciamo. Direi che io è una cosa umana, Quindi sta col più forte, sta col più sta forte. Sta col più forte, ma Renzi starebbe col più forte in ogni caso. Capito. Secondo te invece, Vincino, tu che hai scritto il libro La Cavalcata? Quella è già finita, guarda. Niente, basta. Dura 3 mesi e basta e via. No? E quindi Renzi che fa? Fa bene a stare con il più forte, con la Merkel? Adesso. Ma dove deve stare? Non sa dove stare, non ha capito più niente da parecchi mesi. Come non ha capito più niente da parecchi mesi? Niente da parecchi mesi. Eccolo là. Come dire, obiettivamente non ne azzecca una. Che ci possiamo fare? Ma d'altronde non è che i politici precedenti ne azzeccavano. Mancolò, è diventato Pella, un Pella, abbiamo un Pella. Un Pella. Ma ragazzi, bisogna fare le lezioni di storia, cioè un Pella. Nemmeno io, Pella. Vabbè, per i più giovani cosa puoi dire di Pella? Cioè. Per giovani di Pella indeciso a tutto. No, cosa puoi dire di Pella? Gui ha fatto un piano della scuola tipo Gui. Comunque grazie Vincino, anche oggi uno 0,1% in più di voti al Movimento 5 Stelle, ci scrive Roberto, e soprattutto c'è qualcuno che si vede già la scena di matrimonio e pensa: matrimonio Di Battista con testimone di nozze Beppe Grillo, testimone di nozze alla sposa di tua figlia, al matrimonio di tua figlia. Va bene, e che gli dice al testimone? Io sono contento. appuntamento, quello là, tranquillo, per i prossimi 30 anni, 40 anni. quindi a posto. I genitori badano sul solito a questo. Gli imprenditori, è un imprenditore? I genitori. Ah, no? i genitori vedono solo la sicurezza della figlia, giustamente. Però vedo che sta tutto di lui, eh? Sì, certo, si sistema con Di Battista e Grillo testimone di nozze, ma chi l'ammazza, voglio dire? La famiglia Vincino è a posto per i prossimi 30 anni. Esattamente. Sì, bravo Vincio, piazza la famiglia, fai come... E poi ritornate a lavorare insieme. Coi soldi di Beppe Grillo, cioè coi soldi di Beppe Grillo, Vincino e Robecchi si rimettono insieme. Vabbè, insomma, intanto qui c'è stato ieri Erviperetta è stato da Giuseppe Cruciani. Conosci Erviperetta, Vincino? Sì. L'amico di Pulvirenti. No, senti cosa dice di Pulvirenti Ferrero, presidente della Sampdoria. E come cazzo si permette questo a fare queste cose? Deve essere radiato. A me mi fanno schifo questa gente. No, non deve proprio buttare la chiave, non deve proprio deve morire finito. Finito, deve morire. Non deve esistere. Non deve esistere, vabbè. E però Ferrero si butta anche di. Secondo voi è categoria diversa, No. Pulvirenti, che è uno che mette su compagnie aeree, cinematografie. Fai il bravo, se ti sente Ferrero. Robecchi è di categoria diversa? Ma insomma, passo la patata bollente. Non è un industriale come quello di Parmalat là, ecco, che si inventa un'industria sul latte enorme. Ma fatto che una volta quelli che avevano le squadre di calcio erano definiti ricchi scemi, no? Ti ricordi? Adesso non sono più neanche ricchi. Insomma, vabbè, Robecchi la tocca piano, come si suol dire. Ferrero parla anche di politica. Sentite Erviperetta su Renzi, Salvini e anche su Grillo, attenzione. Per me Renzi è una persona che, se parliamo seriamente, qualcuno facesse lavorare qualcun altro, Renzi potrebbe fare un belle cose. Ma Renzi, specchietto, se specchia fa, invece fai riforme e fa niente. Salvini va in giro con la maglietta, Grillo va a insultare la gente. Ma che cazzo, ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare, vicino? Esatto, la famosa politica catanese. Vabbè. Che dobbiamo fare? È così. Vabbè, Vincenzo, niente. Allora, ci mandi l'invito quando tua figlia si sposa con Di Battista? Con Di Battista. Con Beppe Grillo. Esattamente. Testimone di nozze. Oppure anche Pizzarotti, testimone di nozze. Te lo mando sparato. Pizzarotti, sai che Robecchi ha fatto. Pizzarotti è un ragazzino per bene, che non ha capito niente. L'altra volta gli hai dato del deficiente e su Twitter Pizzarotti si è arrabbiato. Si è arrabbiato, ma lui non doveva comprare il Parma, lui doveva soltanto riunire 10 persone e dire: siete in grado voi 10 ricchi sui 2 milioni di ricchi di Parma, perché Parma è la città con più ricchi d'Italia. Quindi doveva fare questo, doveva mobilitarli e non l'ha fatto. Ma riunirli, basta, lui non faceva niente, e poi si mettono d'accordo loro. No? Comunque, il signor Pizzarotti, se vuole, quando vuole, visto che è 2 anni che lo invitiamo, ancora prima che Vincino si arrabbiasse, 2 anni il sindaco di Parma che lo invitiamo e non si capisce perché non viene mai, qui quando vuole dire la sua. E benvenuto. Io devo salutarvi, Vincino. Comprate uno scanner a Vincino, signor Arpe lì al Foglio. E Robecchi, grazie di essere stati con noi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui? Sì. Le 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. E parleremo poi di cosa? Beh, andremo in onda fino alle 9:30, come sapete, cari ascoltatori, a parlare intanto di questo arresto di una famiglia di jihadisti o aspiranti tali. Ne parleremo dalle 8:15 in Italia, in Italia. Poi parleremo di, beh, dell'unità. Siamo contenti che sia tornata l'unità in edicola, ma sapete come ha rivelato Milena Gabanelli che l'unità ha 95 milioni di euro di debiti, le vecchie proprietà dell'unità. Sapete chi li pagherà questi 95 milioni? C'è il rischio che li paghiamo tutti noi cittadini. 95 milioni di euro. Vi spiegheremo perché. Avremo il tesoriere del PD, Bonifazi, l'onorevole Bonifazi, ai nostri microfoni alle 8:40. Vi spiegheremo perché, per quale inghippo, per quale legge, il rischio è questo. Ma parleremo anche di altro. Ora però andiamo a leggere i giornali. Giovedì 2 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore, mercati e corsa al dollaro, e così l'apertura, e poi ancora Atene e la Grecia che tengono banco. Sul Corriere della Sera, Tsipras insiste, trattativa bloccata. Per Repubblica, la Merkel gela la Grecia. Mentre per La Stampa, Merkel boccia Tsipras, si va al voto, e così il Messaggero stoppa i negoziati, Grecia al voto. Renzi si inchina alla Merkel, è invece il titolo del giornale sotto la dicitura Quarto Reich addirittura. Queste alcune delle aperture, voglio subito però andare a leggere articoli, altrimenti non c'è tempo, e voglio iniziare da alcuni articoli che riguardano i partiti, i nostri partiti. Perché? Perché intanto è successo che ieri, racconta Repubblica con Tommaso Ciriaco a pagina 13, un furgoncino si è presentato nel largo del più bel palazzo in piazza San Lorenzo, in Lucina, dove c'è la sede di Forza Italia. Perché? Perché Forza Italia non paga i debiti, pignorati i mobili di Silvio. Succede che un fornitore che non è stato pagato da Forza Italia ha fatto causa, ha vinto, ed ecco allora l'ufficiale giudiziario tira fuori un decreto, c'è un ordine di pignoramento da eseguire contro il partito, 8.000 euro, e allora in stanzoni semideserti questo ufficiale giudiziario porta via alcune poltrone, un televisore, una libreria, qualche scrivania. Non è un film, ma l'incredibile parabola di Forza Italia. È accaduto che un fornitore si è rivolto al magistrato perché il movimento fondato dal magnate plurimiliardario Silvio Berlusconi non ha saldato alcuni debiti. E allora per legge gli hanno dato ragione e 8.000 euro di beni sono congelati. Il pignoramento di Forza Italia. E Maria Rosaria Rossi, tesoriera, conferma Repubblica. Sì, è successo martedì. Può essere che non sia l'ultimo, abbiamo 6 milioni di euro di debiti pregressi, parliamo comunque di cifre modeste in questo caso, e comunque di mobili e TV ce ne sono altri. Quindi non grande disperazione della tesoriera Maria Rosaria Rossi. A proposito di partiti, è oggi l'apertura del Fatto Quotidiano, il titolo di prima pagina, partiti sempre più fuori legge. Perché lo racconta Carlo Tecce a pagina 2. I bilanci dei partiti non hanno passato il vaglio della commissione di garanzia, controllo e trasparenza istituita con un decreto del governo Letta, che deve dare la bollinatura sui bilanci, appunto, dei partiti. I rendiconti inviati dai tesorieri relativi al 2013 non hanno ottenuto questo bollino, perché il magistrato che presiede questa commissione, Luciano Calamaro, spiega: la commissione non dispone degli strumenti per le verifiche più accurate su bilanci e dunque non è intenzionata a imprimere il suo bollino di qualità. Questo spiega in sintesi la relazione della commissione inviata ai presidenti di Camera e Senato e che il Fatto Quotidiano ha consultato. La domanda che però si pone Carlo Tecce è: ma se i partiti hanno dei bilanci che non sono stati approvati dalla commissione preposta per approvarli? Il quesito automatico successivo è: il partito con il bilancio non certificato, e qui ci sono tutti, tranne il Movimento 5 Stelle che non partecipa alla spartizione dei soldi pubblici, potranno accedere ai rimborsi elettorali? Quest'anno sono di 46 milioni, e al finanziamento fino al 50% delle donazioni private? Se non hanno il bilancio bollinato, invece i rimborsi verranno regolarmente bollinati e dati? Ripeto il fatto, dice, tranne che per il Movimento 5 Stelle, che da sempre ha detto noi i rimborsi pubblici non li vogliamo. E beh, domanda mica da poco. A proposito di spese, invece, Libero va a fare i conti sul cerimoniale di Palazzo Chigi. Sapete, scrive Franco Bechis, quanto costano le pubbliche relazioni, quanto ha speso da quando è premier, da oltre un anno, quindi, Palazzo Chigi per Renzi? 1.600.000 euro in viaggi, pranzi e cerimoniale, oltre 30.000 euro al mese solo per i pasti consumati in missione con i collaboratori, di cui 12.000 euro per quelli sull'aereo blu, sborsati invece 880.000 euro per gli incontri istituzionali. Va bene, ma è tutto abbastanza trasparente, messo su Palazzo Chigi, però il sito Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato questi dati che, secondo Libero, sono abbastanza clamorosi. 1.600.000 euro per il cerimoniale, 880.000 solo per le spese per gli incontri istituzionali. Che ne so, si incontrano i capi di Stato esteri e queste sono le spese. Non so giudicare se siano tante o se siano poche, al di là e al netto dei populismi. Comunque la cifra è quella. Questione invece più seria, ne abbiamo parlato anche due giorni fa quando abbiamo avuto ospite la mamma di Vito Scafidi, quel ragazzo che è morto a 17 anni mentre era a scuola perché un tubo di ghisa gli è piombato sulla testa mentre a fare il suo dovere, ha ottenuto un risarcimento alla famiglia di 2 milioni di euro. Da 20 anni manca in Italia l'anagrafe dell'edilizia scolastica, cioè uno studio preciso di qual è lo stato di salute dei nostri edifici scolastici, visto che crollano continuamente, crollano intonaci, pezzi di soffitti, crollano le finestre, e fortunatamente la maggior parte delle volte non succede niente di grave. Che è successo? Che la promessa da parte del governo Renzi era entro il 30 giugno di rendere nota questa anagrafe delle condizioni delle scuole italiane. Siamo al 2 luglio, se non ci è sfuggito nulla, questa data non è stata rispettata. La Stampa, niente dati promessi sulle scuole, imbarazzo per il Ministero. Flavia Amabile a pagina 9 racconta: nemmeno questa scadenza è stata rispettata, l'anagrafe sulle condizioni delle scuole italiane continua a essere un'utopia. Il Ministero l'aveva promessa entro il 30 giugno. Siamo a luglio. A quanto si apprende dal Ministero, i dati sarebbero arrivati, ma vanno elaborati. Quindi Cittadinanza Attiva ha depositato un ricorso per chiedere l'ottemperanza del Ministero rispetto a quanto imponeva una sentenza esecutiva del TAR del Lazio del 2014. Anche Avvenire dedica mezza pagina a questo tema con Enrico Lenzi, anagrafe edilizia, pubblicazione saltata, con la protesta di Cittadinanza Attiva. E va bene così. Volete sapere qual è l'articolo che oggi ci fa tenere le mani strettissime sul volante? Mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. È l'articolo di Dario Di Vico a pagina 30 del Corriere della Sera, che racconta quanti sono stati gli scioperi nel 2014. In Italia ci sono stati nei servizi pubblici essenziali 1.233 scioperi, ovvero una media di 3,3 scioperi al giorno. Tre scioperi al giorno nel trasporto locale, soprattutto il settore più colpito, 331 fermate in un anno, quasi una al giorno. Segue il trasporto aereo con 182, ovvero un'agitazione ogni due giorni, numeri impietosi, e sono stati resi noti dal garante degli scioperi Roberto Alesse nella sua tradizionale relazione annuale. È vero che è sceso il monte delle astensioni anche solo proclamate, da 2338 a 2084, sono aumentate nettamente le sanzioni comminate, il numero di soggetti colpiti, ma il quadro che emerge è sconsolante. Per i servizi pubblici una media di 3,3 scioperi al giorno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il pane Nutella dell'informazione. Zebon, zebon, zebon. Contiene valori nutrizionali, energia, grassi, carboidrati, proteine, sale e olio di palma. Oh, soprattutto olio di palma. Allora, la Grecia ovviamente ormai siamo al muro contro muro, adesso si è invertita la situazione, per cui paradossalmente Tsipras, che voleva trattare dopo aver indetto il referendum per domenica, si è trovato di fronte un Angela Merkel che dice: no, adesso avete voluto il referendum, adesso attendiamo il referendum e sulla base del referendum vedremo come continuano le trattative. È una Merkel che insomma ha ribaltato il tavolo della questione. Ci sono ancora tantissimi articoli per orientarsi su quello che sta succedendo in Grecia. Secondo Federico Fubini, a pagina 3 del Corriere della Sera, il piano segreto di Varoufakis, cioè ministro delle finanze greco, è questo: c'è una moneta parallela all'euro, si sta studiando proprio questo. Se il no dovesse vincere, Varoufakis ha già parlato a Tsipras del suo progetto, che è in piena contraddizione con la premessa di entrambi di che la Grecia resterà nell'euro. Ed è questo il progetto di Varoufakis: l'idea è quella di un nuovo veicolo monetario parallelo, solo in teoria convertibile alla pari con l'euro, ma necessario per ricapitalizzare le banche e permettergli di riaprire prima che ad Atene scoppi una rivolta. Addirittura si sta studiando come funziona il Bitcoin, cioè la moneta online. Varoufakis, tra l'altro, viene ripreso in questa foto assediato da tutti i cronisti, lui arriva sempre in moto, ha proposto, secondo il Corriere della Sera, questo piano segreto, una moneta parallela all'euro. La situazione è molto tragica, è sull'orlo davvero della catastrofe. Pensate che i pensionati senza bancomat possono ritirare ora 120 euro ogni 3 giorni, 40 euro al giorno dalle banche, non di più. E secondo sempre Federico Fubini, il retroscena è questo: perché Angela Merkel vuole ora il referendum? Perché in realtà la Germania spererebbe in una vittoria del sì, spera in una vittoria del sì, per mettere pressioni politiche, addirittura fare cadere il governo Tsipras e quindi continuare il negoziato con un governo più compiacente, tanto che si fanno già i nomi. Il moderato Dragasakis, insieme all'ex governatore della Banca di Grecia George Provopoulos e anche l'attuale governatore Yannis Tournaras, sono candidati di punta alla guida del prossimo governo che, con basi più ampie e moderate, dovrà portare la Grecia fuori dall'emergenza. Ecco che già si parla del nuovo governo, dovessero vincere sì. Anche se Tsipras ieri, in un nuovo appello in TV, come racconta Vittorio Darold del Sole 24 Ore inviato ad Atene, ha rilanciato: votate no, votate no. Tra l'altro Vittorio Darold racconta molto bene a pagina 5 del Sole che cosa, qual è la questione dell'IVA sulle isole greche. E nell'IVA sulle isole greche le attività commerciali hanno uno sconto del 30%, perché vivere sulle isole greche, si vive di turismo solo qualche mese all'anno, poi d'inverno è tutto più difficile, la merce costa di più, gli ospedali non ci sono, andare a scuola è più complicato. E questo sconto del 30% sulle isole greche è uno dei problemi che la Troica europea definisce un privilegio inaccettabile e che invece i sindaci delle isole greche vogliono mantenere. Su queste agevolazioni Vittorio Darold spiega bene qual è la partita sotto il titolo Mykonos e l'IVA della discordia, a pagina 5 del Sole 24 Ore. Ci sono poi interviste, scendono in campo personalità italiane, una sul Corriere, una su Avvenire, una su Repubblica, a fare interviste. Sul Corriere parla l'ex premier Mario Monti: Atene sbaglia, ma Berlino stia attenta o scatenerà una rivolta degli spiriti. Intervistato da Aldo Cazzullo, Monti dice: la situazione è complessa, la responsabilità certo è più di Atene, molto più che di Bruxelles, dei governi degli ultimi decenni, ma anche di Tsipras e Varoufakis, che in pochi mesi con i loro comportamenti egocentrici hanno dilapidato il patrimonio di simpatia conquistato con la vittoria elettorale. Poi Monti difende il suo governo quando dice: l'economia italiana cresce la metà rispetto ai paesi dell'Eurogruppo, ma non è stato il mio governo a deprimerla, anzi con le riforme che abbiamo avviato, proseguite dai successori, abbiamo posto le basi per la ripresa. E poi Monti si toglie anche qualche sassolino nei confronti dell'attuale premier Renzi. Oggi c'è Renzi, chiede Cazzullo a Monti, sta guidando o sta seguendo? Guidando? Chiede Monti. Ci siamo capiti, professore, l'Italia di Renzi ha un ruolo attivo o va a rimorchio degli altri? preferirei evitare di parlare di Renzi. Posso dire questo: Renzi ama ripetere che in Europa occorre meno burocrazia e più politica. È una frase di grande grossolanità. A quale politica si riferisce? Se politica significa andare ai vertici pensando solo agli interessi di casa propria, ai sondaggi, alle elezioni successive, allora di politica ce n'è fin troppa. Se i leader, e parlo in generale, si imprigionano nello schema delle 140 battute di un tweet, allora non sono leader, ma follower. Se pensano ai dibattiti TV dove prevali se esprimi un concetto in 10 secondi, allora saranno i populisti a prevalere. Era anomalo che il Consiglio europeo si occupasse soltanto delle crisi finanziarie e non dei populismi nascenti. Ora la situazione è più pericolosa. Insomma, parla in generale Monti, ma una bella stoccatina a Renzi la dà. E poi ritorna in conclusione sulla sua famosa frase quando disse nel 2011 che la Grecia era l'emblema di come l'euro funzioni. Dice Monti: sì, lo dissi da Gadlerne e ne sono convinto che presto potrò rivendicarlo. Senza il pungolo della moneta unica la Grecia non si sarebbe mai messa sulla via delle riforme per sconfiggere la corruzione, il clientelismo, l'evasione fiscale. Lo stesso concetto vale per l'Italia. Così Monti, mentre Romano Prodi, intervistato da Andrea Bonanni su Repubblica, sotto il titolo «Atene non uscirà dall'euro ma senza autorità federale sarà proprio l'Unione a fallire», ricorda Prodi, dopo aver auspicato e detto che secondo lui non ci sarà un affondamento dell'euro, perché si farà un accordo, il pericolo certo è reale, ma un non compromesso è un evento impensabile. Voglio vedere come Merkel, Juncker e Lagarde possono prendersi la responsabilità di lasciare la Grecia fuori dall'euro. Voglio però sperare che Atene non sia la nostra Sarajevo. Prodi, dopo aver detto che dunque un accordo secondo lui ci sarà, parla delle responsabilità. Mia madre diceva: dai cattivi debitori si prende quel che viene. Fin dall'inizio si sapeva che la Grecia non avrebbe mai potuto restituire per intero il suo enorme debito. Un compromesso di buon senso all'inizio della crisi sarebbe stato un taglio del debito sopportabile per i creditori e l'imposizione di un'austerità sopportabile per i greci. Ma non è successo, perché hanno prevalso logiche nazionali, gli estremisti di Tsipras da una parte e i bavaresi dall'altra. Così si è continuato a pasticciare. Insomma, per Prodi una colpa un po' a metà per rispettive posizioni negative. E cosa serve? Manca una vera autorità europea. Dice Prodi, questo è, da parte degli europei e da parte dei greci si è mantenuta una posizione troppo dura. Occorre creare una vera e forte autorità europea che è stata continuamente messa in un angolo dai governi nazionali. E così anche Enrico Letta parla ad Avvenire: l'intesa ci vuole ad ogni costo. Ma la cosa che mi ha più colpito è l'intervista a Elsa Fornero. So che farà molto arrabbiare gli italiani appena si parla di Elsa Fornero, hanno il dente molto avvelenato, alcuni comprensibilmente, gli esodati soprattutto. Parla l'ex ministro al welfare sulla Stampa, intervistata da Francesco Manacorda. Suona un po' amara come riflessione. Se fossi ministro tecnico in Grecia non taglierei le pensioni. Così Elsa Fornero: non taglierei le pensioni dei greci. In Grecia, visto anche l'altissimo tasso di disoccupazione, per molte famiglie le pensioni sono probabilmente l'unica fonte di reddito e alcune riforme sono già state fatte. Dunque non penso che serva riformare ancora tagliando le pensioni. Questo è Elsa Fornero sulla Stampa: non taglierei le pensioni in Grecia. In Grecia, aggiungiamo, ovviamente. Vabbè, Renzi è andato da Angela Merkel, viene accusato di essersi inginocchiato da alcuni giornali come Libero, come Il Fatto Quotidiano. Certo, quella frase più dell'IVA delle isole greche mi preoccupa il terrorismo, poi ha ribadito il referendum, è un errore. Renzi, sicuramente siamo stato vicino alla cancelliera tedesca. Non lo so, Iena sulla Stampa in questi giorni è particolarmente brillante, oggi la vede così: meditate, in Grecia è nata la civiltà, in Germania la barbarie. Siamo al tifo, siamo alle barricate, o stai di qua o stai di là. Tu, Mauro Meazza, con chi stai? Dai, schierati, forza. Guarda, io sto con Evaristo. Ah, io col Milan. Buongiorno, siamo buongiorno innanzitutto. No, sto con Evaristo perché ieri mi hai detto che Evaristo era preoccupato. Sì, per il 7:30. Bravissimo, allora abbiamo una risposta, Evaristo. Abbiamo una risposta. Ascolta bene, Evaristo. C'è il rinvio al 23 luglio, ma attenzione. C'è il rinvio. C'è il rinvio 23 ma luglio. Non è per chi invia per conto proprio, cioè il singolo ma contribuente. La domanda riguarda CAF intermediari, cioè i professionisti, e solo per una piccola parte. Tutti i particolari in cronaca? No, tutti i particolari. Sulle pagine di norme e tributi oggi sul Sole 24 Ore. Si va al 23 luglio, alcuni, non tutti. Caro Evaristo, questa è la prima cosa che ho voluto dire questa mattina. Poi la seconda, posso candidare una notizia a mani sul volante, sì, come dici tu? Com'è? Tazzine di caffè bollente. Da appoggiare. Sì. Ecco, eccetera, eccetera. Proprio in copertina, nella prima pagina di norme e tributi, sì, leggo da Marco Mobile, Giovanni Parente, che la riscossione, cioè insomma quello che dovremmo tutti noi, anche tu probabilmente al fisco, ammonterebbe a una quota di 682 miliardi, ma recuperabili, cioè insomma aggredibili realmente, sono 101. Ah. E adesso non so se vuoi mandarmi la signora che dice come è possibile, sono cose che capitano, cose eccetera, che capitano. Ecco, ma va bene, ecco, lo trovi tutto lì. Insomma, in sostanza ci sono 580 miliardi che rischiano di essere perduti. Ah. 580 miliardi, vabbè, cioè bruscoli. Non si riesce più a riprenderli. Quanto alla Grecia, va bene, sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente, e come sempre in questi giorni, non solo l'articolo di Vittorio Darol che già hai ricordato sulla questione IVA, ma anche come è andata ieri sui mercati, quali sono le prospettive, ormai sembra che si vada a questo referendum che diventa quasi un'ordalia. Ti piace ordalia? Ah, attenzione, parole grosse. Parole grosse, parole importanti di cui forse non so neanche bene il significato. Vabbè, ma tu piazzale lì, piazzale lì. Ma così suonava bene. Tanto per dire, e poi ti voglio dire che oggi c'è anche Casa 24, naturalmente, perché è giovedì, e parliamo di canone concordato, perché il canone concordato, che sarebbero quelle intese legate al territorio, può far ridurre anche le tasse. Ecco come, leggi Casa 24, così puoi scoprirlo. Sulla Grecia mi fermo, guarda, io farei vedere la vignetta di Domenico Rosa anche oggi, mi sembra illuminante, mostrala pure agli ascoltatori. Eccola qui. Volendo, io mi sono umilmente permesso di metterla anche su Twitter. Vabbè, non voglio dire altro, sono cose che capitano. Okay, va bene? Va bene. Ci sentiamo domani, caro Alessandro, e soprattutto caro Evaristo. Traffico! Alessandro Milan, lo zio Fester, De Noantri. Lo zio Fester a De Noantri, va bene, 0246524492 è la nostra segreteria telefonica. Volete anche voi mandare il vostro parere, fare la vostra sigletta, fare, e poi noi la mandiamo in onda, eh? Mi raccomando. Allora, intanto Berlusconi anche parla della Grecia, lo fa con una lettera pubblicata in prima pagina del giornale. La lettera di Berlusconi: teniamo la Grecia e cambiamo l'Europa. In questa lunga lettera, che continua poi a pagina 6, scrive Silvio Berlusconi: non c'è dubbio che il governo greco ha enormi responsabilità in questa situazione. Tsipras rappresenta la sinistra peggiore, un mix di ideologia e demagogia anticapitalista dagli effetti disastrosi. Ma perché siamo giunti a questo? Perché i greci lo hanno eletto? Perché tanti spagnoli votano Podemos e tanti italiani Grillo e tanti francesi Marine Le Pen? Perché, è la risposta di Berlusconi, questa Europa sta facendo fallire il sogno europeo. Essere davvero europeisti significa prenderne atto e dirlo con chiarezza. E quindi scrive all'interno della lettera, e poi in conclusione, Berlusconi: il futuro dell'Europa oggi è nelle mani degli elettori greci, che domenica si esprimeranno al referendum, ma comunque vada, da lunedì sarà nelle mani della lungimiranza delle leadership europee. Questa è la lettera di Berlusconi, che invece in un retroscena del Corriere, pagina 15, direbbe ai suoi, così racconta Tommaso Labate: Renzi in politica estera ha sbagliato e continua a sbagliare tutto, soprattutto le sanzioni contro la Russia. È andato da Putin qualche giorno fa. Berlusconi, e dunque questo. Tra l'altro Berlusconi che se la deve vedere però con la questione dei soldi date alle olgettine per i quali i magistrati hanno chiesto il rinvio a giudizio. Repubblica mette oggi in pagina oggi una lettera vecchia dell'ex fidanzato di Ruby, che forse scrisse una lettera a Berlusconi, poi non si capisce se è riuscita a recapitargliela: ricordi di comprarmi le case in Messico come aveva promesso. Mentre invece Libero dice: così Silvio faceva regali prima del caso Ruby. Insomma, sono, come definiscono i suoi avvocati, atti libertari. Così gli avvocati di Berlusconi hanno definito i soldi che sono finiti alle olgettine, stimati in 10 milioni di euro. Atti libertari. Filippo Facci oggi fa il commento, appunto, sulla prima pagina di Libero su questo tema. C'è una ricorrente voce di popolo che dice più o meno questo: Berlusconi ha comunque sbagliato, perché le donne, le feste erano fatti suoi, certo, però non doveva fare tutto quel troiaio mentre era presidente del Consiglio, non doveva folleggiare con intere batterie di battone e poi pretendere di non essere ricattabile. Va detto che, per grezza che sia, l'opinione non fa una grinza, ma a difesa di Berlusconi c'è stata una battaglia per la privacy e per i fatti di ciascuno in camera da letto, per il libero arbitrio di chi è libera di fermarsi a cena oppure di tornarsene a casa. Questa controffensiva culturale sui media spesso era mischiata a una strategia difensiva senza compromessi. Poi però ci pensi: anni di intercettazioni che palesano scambi, ricatti o risarcimenti che fossero, chi chiedeva soldi, chi lavoro, la casa, la villa, l'auto, la candidatura, uno spaventoso e instancabile esercito di questuanti che registrava, fotografava, ammiccava, telefonava. E ora non è in discussione la generosità di Berlusconi né la valenza morale e penale degli scambi, ma di fatto è almeno dal 2008 che un esercito di puttane gli frantuma insistentemente le palle. E ora tornerà pure a processo. Da qui la domanda: ma davvero pensate che lui i suoi errori non li abbia capiti? Questo Filippo Facci oggi su Libero. Per chiudere la politica c'è un'intervista a Crocetta, che sapete è a rischio, governatore della Sicilia, perde l'assessore Lucia Borsellino, ha cambiato 35 assessori in 31 mesi di legislatura, e oggi attacca, intervistato da Jacopo Iacoboni sulla Stampa: intanto Faraone, siciliano sottosegretario, questo Faraone vuol solo fottermi la seggiola. Vogliono tutti la mia poltrona, da Roma vogliono imporre dei piccoli proconsoli. E racconto che quel PD che ora m'attacca voleva mettere in giunta, quando sono stato eletto, Mirello Crisafulli, Vladimiro Crisafulli, lo capisce, guardate ora che guai ha. E voleva mettere il cognato di Francantonio Genovese, poi arrestato, Franco Rinaldi. Ha presente lo scandalo che poi è scoppiato sulla formazione in Sicilia? E ora Crocetta attacca: Renzi sono l'unico governatore con cui non ha mai parlato neanche una volta. Il governo ci deve 350 milioni di coperture, c'è una sentenza della Corte Costituzionale e non ce le dà per strangolarmi. Così Crocetta attacca il PD nazionale. Vabbè, di cronaca c'è l'arresto del presunto stupratore, questo militare 31 anni che ha stuprato una ragazzina di 16 anni portandola via con l'inganno, con un tesserino da militare, dicendo: non puoi bere una birra, devi venire con me, ti devo portare in polizia per essere identificata. Il Messaggero ha soprattutto i racconti dettagliati dello strazio di questa ragazza, che dice: un incubo, ho provato anche a scappare, si è distratto un attimo quando ha cercato di spogliarmi. Ho provato a scappare, ma se lo vedete, e se è lui in foto, è molto muscoloso, mi ha ripreso in 2 secondi e mi ha detto: stai ferma o ti faccio male, ma tanto. Al che questa ragazza dice: ho solo pensato di chiudere gli occhi e sperare che finisse in fretta. Davvero uno strazio incredibile raccontato nella cronaca da parte di tutti i giornali, C'è anche molto dell'inchiesta della famiglia di jihadisti, di cui parleremo tra poco alle 8:15, quindi non anticipiamo nulla, solo 2 notizie. La prima: che c'è un signore che risponde al nome di Waled bin Talib. Talal. Lo faccio vedere anche per gli amici di Periscope collegati in questo momento con Lorenzo Nespoli, che è entrato in redazione qui nello studio. Waled bin Talal è l'uomo più ricco dell'Arabia Saudita e di tutti i paesi arabi, dice, annuncia: donerò 32 miliardi per i poveri, per i diritti delle donne, per gli orfanotrofi. 32 miliardi di dollari, però insomma. Lo trovate su Repubblica. Francesca Cafferri racconta questo magnate arabo, che questo imprenditore arabo che ha quanto ha? Beh, ha un pochino di soldini, comunque, un pochino di soldini, sì, stimato in 300 milioni di dollari, no, quanto è? 30 miliardi da, vabbè, da 30 miliardi di dollari, 30 miliardi di dollari, ma è una cifra pazzesca, 30 miliardi. Bah. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Estate, Antofa, caldo, una pagina intera per dire che farà più caldo da noi che in Africa. Ma chi l'ha detto? Non lo so, ma siete mai stati in Africa? Comunque fa caldo, arriva Flegetonte. E dunque attenzione ai consigli, fa caldo, bevete molto. Anziani, non andate sotto la canicola alle 13 a fare una passeggiata, ma state al fresco. Mettetevi l'aria condizionata, bevete, mangiate verdura, non l'abbacchio da 2 kg. Ovviamente. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il terrore è un dovere. Per chi è lì in Italia bisogna uccidere i miscredenti. Loro non vogliono lo Stato islamico, non vogliono l'altissimo. Così si esprimeva al telefono Maria Giulia Sergio, una ragazza italiana che si era convertita all'Islam con il nome di Fatima, e si esprimeva al telefono così con la sorella che l'ascoltava dall'Italia, perché Maria Giulia Sergio già da un po' di tempo con il marito albanese, si erano sposati nella moschea di Treviglio in provincia di Bergamo. Era andata a fare la jihad, andata a combattere in Siria e si trovava lì. Li chiamano foreign fighters. In Italia da un paio di mesi è reato andare a combattere per una guerra con, in questo caso, nelle fila dello Stato islamico. Ebbene, cosa è successo? Che ieri sono stati arrestati 10 familiari, il padre, la madre, la sorella della ragazza. Erano residenti a Inzago, in provincia di Milano. Erano pronti anche loro a partire per la Siria, secondo la procura di Milano. Il padre operaio aveva ottenuto 25.000 euro di liquidazione, fondi per il viaggio. Insomma, volevano tutti andare a combattere. Allora, ci si chiede, in questa inchiesta nella quale il Corriere racconta, è la prima volta che si capisce come funziona anche il reclutamento all'interno dello Stato islamico. Ci si chiede se fossero dei matti, se fossero dei fanatici, se invece ci sia una rete più pericolosa, più penetrante nel nostro paese, come in tanti paesi occidentali, di terroristi, di persone pronte a tutto pur di colpirci. Di questo vogliamo parlare con Fausto Biloslavo, che ha avuto il merito ieri, tra l'altro, sul giornale, di anticipare in qualche modo, non dico gli arresti, ma l'inchiesta. Fausto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Perché buongiorno. Ieri il giornale titolava appunto di questa Lady Jihad e poco dopo in mattinata sono stati arrestati tutti. Saluto Lorenzo Vidino, che è professore, buongiorno, è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University. Buongiorno professor Vidino, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Fausto Biloslavo, intanto la domanda che si pone e si pongono tutti è: fanatici, maniaci, anzi la vogliamo sentire Fatima, Fatima che parlava nel 2009, era stata inviata da un programma Mediaset, era lì tutta velata e parlava, c'era anche l'onorevole Mussolini, questi programmi in cui si parla di integrazione, come integrarsi, no? Fatima al secolo, Maria Giulia Sergio parlava così. Allora, innanzitutto la donna musulmana segue un codice di abbigliamento dettato da Allah, ok, gloria a lui l'altissimo, che dice la donna deve seguire un codice di abbigliamento. La donna musulmana non va in giro con le gambe nude. Che l'ha detto? Vabbè, questo allora. Fausto parlava così. Intanto ecco, ci si chiede, fanatici, una famiglia di come dire, di radicalizzati, oppure purtroppo c'è da temere che ci sia qualcosa di più profondo. Ma fanatici sicuramente, ma non stupidi, non dementi. Maria Giulia Sergio, questa prima lady jihad italiana, penso che sia un po' l'anima nera, che è riuscita, insistendo giorno dopo giorno da quando è arrivata in Siria, è una delle forze di Stato Islamico, anche a convincere la propria famiglia a raggiungerla. Ma l'ha già raggiunta la parte albanese della sua famiglia, perché lei con matrimonio combinato ha sposato questo giovane albanese che è diventato un mujahed del califato, e con loro sono andati la suocera e anche la sorella del marito, che tra l'altro ha avuto un bambino, un neonato a un anno e mezzo, da un altro mujahed che è morto in combattimento. Cioè, quindi e saranno anche fanatici, però sono molto pericolosi, sono molto pericolosi. Tra l'altro devo fare subito una precisazione, perché mi dico a Treviglio non c'è nessuna moschea, quando si definisce moschea, anche a Milano non c'è una moschea, sì, ma sì. Quando si dice la moschea, si diceva la moschea di Viale Jenner, sono luoghi dove si trovano a pregare, quindi ci sarà a Treviglio un posto dove i musulmani, è un centro islamico, un centro culturale. Una semplificazione giornalistica, comunque là si è sposata, e con appunto la consapevolezza e l'aiuto sia della famiglia sua italiana che della famiglia albanese, che tra l'altro viveva, suo marito vivevano in Maremma, a Scansano, un posto totalmente sospettabile, e con la consapevolezza di questo matrimonio combinato, col fatto che appunto subito dopo il matrimonio lei doveva sposarsi, perché da sola una donna, appunto lo diceva anche a Canale 5, no? Da sola una donna non può andare da nessuna parte dell'isla, doveva andare con il marito barbuto mujahed. Tutti avevano questa consapevolezza che partiva per la Siria, e quindi anche per questo poi la parte albanese è stata arrestata. Tra l'altro si trova ovviamente in Siria, è la parte, lei è l'unica, che insomma è scampata a questo tipo di arresti. Su questi 10 sono stati fatti 5 arresti, e ovviamente ci sono dei mandati di cattura per lei, per il marito, e anche tra l'altro, poi magari ne parliamo, per l'istigatrice di queste giovani donne, che è una cittadina canadese nata in a Bologna, ma che sta in Arabia Saudita e che online attizza queste donne dicendo: io vi insegno il Corano, dopodiché in realtà le insegna la fedeltà e l'amore per lo Questo stato è interessante, il proselitismo in rete, ne abbiamo parlato tante volte anche con il professor Vidino. Perché professore, anche ieri dibattevamo su questo, sulla questione, sa che c'è una visione di chi dice bisogna chiudere le moschee o questi centri islamici. Secondo me, io lo ribadisco, è una posizione sbagliata, una posizione comoda, facile, populista, ma il proselitismo non avviene spesso nelle moschee. Le moschee vanno controllate, come ci ha detto ieri padre Samir, vanno controllate, e in tutti i paesi anche islamici, musulmani, vengono controllate, anche in Egitto, ci spiegava padre Samir, lui che è egiziano, come vengono controllate bene. Ma non è chiuderle la soluzione, perché tanto il proselitismo si fa in mille modi diversi. Professor Vidino, lei è stupito da questi arresti, oppure prima o poi anche in Italia doveva succedere? No, non sono assolutamente stupito, sono dinamiche che si vedono in tutti gli altri paesi occidentali da tempo, in realtà insomma, l'abbiamo detto altre volte, l'Italia segue e replica su scala minore delle dinamiche che vediamo in Inghilterra, in Germania, in Francia da 2-3 anni, donne che partono convertite, queste dinamiche di addescamento online, quindi di social network usati da gente che è in Siria e che parla, quindi su Instagram, su Facebook, su Twitter, con amici, parenti che rimangono in Europa, e c'è questo convincimento, lento convincimento a partire, vieni nello Stato islamico, vieni a costruire questa società islamica perfetta. Sono dinamiche comuni. In certi paesi europei le donne sono ormai il 25-30% delle persone che partono, dei foreign fighters che partono per la Siria, per lo Stato islamico, e convertiti sono anche loro il 25-30%. Queste sono forse le prime dinamiche che vediamo di questo tipo in Italia, ma insomma ci sono un po' in altri paesi. Qual è il profilo tipo del foreign fighter? Cioè, perché si lascia tutto e si va a imbracciare una causa che può essere considerata una causa non propria, almeno inizialmente? Sì, il profilo non esiste in realtà, è un profilo molto eterogeneo. Abbiamo dai ragazzini di 13 anni ai cinquantenni che partono con moglie e figli al seguito. Dai neoconvertiti, abbiamo gente che si converte e dopo 2 o 3 mesi parte per lo Stato islamico. Abbiamo musulmani di prima, seconda, terza generazione. Abbiamo sbandati e soggetti che hanno un dottorato, qui in Inghilterra, io sono in Inghilterra oggi, è molto comune la dinamica di studenti. L'altro giorno era stato rivelato che un gruppo di studenti di medicina sono partiti per lo Stato islamico, quindi non esiste un profilo comune. Le motivazioni sono altrettanto diverse, c'è comunque questa attrazione per la creazione o il partecipare alla creazione di una società utopistica perfetta, islamica, chiaramente nella mente perversa di chi lo vede, come vede lo Stato islamico, il califfato come lo Stato perverso, e c'è questa forte attrazione, l'idea di creare la società perfetta di Dio, dove è applicata la Sharia in maniera perfetta, è un qualcosa di un messaggio che lo Stato islamico ha, che Al-Qaeda non aveva, e ciò spiega i numeri altissimi, relativamente chiaramente, di soggetti che partono per lo Stato islamico. Questo è interessante, cioè Al-Qaeda non aveva questa appeal nei confronti degli stranieri, ma soprattutto lo Stato islamico invece, ci sta dicendo? I numeri di Al-Qaeda erano molto più bassi, cioè chiaramente abbiamo avuto... Cioè, voglio dire, soprattutto soprattutto di occidentali, appunto, che si convertono. Magari l'Al-Qaeda veniva a combattere da altri paesi musulmani, ma qui di occidentali che si convertono e vanno a combattere ce ne sono di più. Un numero molto più alto, un numero molto molto molto più alto, perché per un insieme di motivi. Da una parte c'è la propaganda online, cioè come i social network vengono usati dallo Stato islamico per raggiungere delle audience anche nuove, molto più ampie di quello che Al-Qaeda faceva, ma c'è l'attrattiva della società nuova, della visione utopistica della società. In un certo senso non è differente come 40-50 anni, no, 30-40 anni fa c'erano ragazzi italiani che volevano andare in Sud America a creare la società comunista perfetta. Ricordiamoci certi casi di chi partiva per la Bolivia o per Cuba a creare la dittatura del proletariato. La dinamica è molto simile di chi comunque vede un certo tipo di divisione di società utopistica, la vede nel califfato in Siria e Iraq. Sì, allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, Fausto Biloslavo. Parliamo allora di questa reclutatrice, cioè detto è canadese ma nata in Italia, a Bologna, e vive in Arabia Saudita. Cioè, chiama Aik Bushra, è una cittadina canadese, Italia, a Bologna, vive in Arabia Saudita. Si spaccia, si presenta come insegnante del Corano, è una dei 10, qui sono arrivati sulla testa, insomma, l'ordine del custode cautelare, però sta a Riyadh, e da là riusciva a manipolare elementi e soprattutto delle donne, Maria Giulia Sergio, sua sorella Marianne, e addirittura segnalava i link in internet dove in italiano, con altri indagati della procura di Brescia, erano stati tradotti i testi dello Stato islamico, era stato presentato lo Stato islamico, ma giustificava qualsiasi orrore. Per esempio, vi ricordate il pilota Giordano catturato e bruciato vivo, no? Sì. Ecco, questa giustificava, cioè, nelle intercettazioni, la legge del contrappasso, dato che lui aveva bombardato il territorio del califfato, aveva quindi ammazzato con le bombe, bruciato, insomma, no? I seguaci del califfato, doveva fare la stessa fine, doveva venire bruciato vivo. E questa gente, la sorella di Maria Giulia e Marianna, che è una anche degli arrestati che era pronta a partire per la Siria, e ci credeva a tal punto che con altre musulmane che erano un po' più timorose dicevano sì, però sono bruciati i prigionieri oppure le stragi, ammazzare i civili eccetera, no? E giustificava attraverso appunto gli insegnamenti, non solo evidentemente del semplice Corano, di questa signora. Ma l'aspetto, tornando a quello che dicevi prima sulla rete in Italia, una piccola frase dell'intercettazione secondo me è molto pericolosa, è quella detta proprio da Maria Giulia a suo padre Sergio, che stava facendo i bagagli insomma, per raggiungerla in Siria, che gli chiedeva se là poteva comprare un fuoristrada, e lei gli diceva sì, poi ti daranno anche il calascico, insomma eravamo a questi livelli. A quel punto però appunto la famiglia gli dice, la mamma, il padre, la madre gli dice sì, però noi come arriviamo, ci sono delle difficoltà logistiche, insomma come partiamo dall'Italia, e lei dice testuale: non preoccuparti, mio marito, cioè il Mujahid di origine albanese, ha i contatti, ci sono dei mujahidini in Italia che vi possono aiutare. E questo, ci sono i mujahidini in Italia, che è la cosa che preoccupa ovviamente di più. Vogliamo ripartire da qui dopo dopo la pubblicità, qualche minuto di pubblicità. Ripeto, 800 24 00 24. C'è chi propone, lo sentiremo, Daniela Santanchè, a dire bisogna chiudere le moschee o centri islamici, come li volete chiamare, moschee improvvisate. È questa la soluzione, oppure un'intelligence migliore, o è entrambe le questioni? Tra poco. Allora, sono le 8:38 minuti, stiamo parlando di questi arresti che ci sono stati ieri da parte della Procura di Milano nei confronti di un'intera famiglia, di parte di famiglia capitanata da Maria Giulia Sergio, o Fatima, da come si fa a chiamare, da quando è convertita all'Islam, ora è in Siria a combattere insieme al marito. Sono stati arrestati i suoi familiari che, secondo la Procura di Milano, stavano per partire per raggiungerla appunto in Siria. Come detto, tra chi pensa che il proselitismo si fermi anche bloccando le moschee, chiudendo le moschee, c'è Daniela Santanchè. Vogliamo sentirla? Secondo me non c'è l'Islam moderato, c'è chi è osservante, è ortodosso, e quindi non può essere moderato, perché basta leggere il Corano, i vari versetti del Corano, dove c'è tutto scritto in maniera molto chiara. Che cosa vogliono loro? Noi siamo gli impuri, siamo gli infedeli, per cui loro dicono: o riusciamo a convertirli e a sottometterli, oppure li dobbiamo fare fuori. Allora, sono sempre dell'idea poi loro, non è facile. Certo, ci sono alcuni, tanti o pochi che siano, che interpretano l'Islam così. E ci scrive un ascoltatore: lo so che sembra assurdo, ma come fare per non viverne la paura che ogni straniero non occidentale non sia un terrorista? Caro ascoltatore, un po' più di fiducia nelle persone. Si incontrano tantissimi stranieri musulmani, ma anche non musulmani, e il 99,9% di loro sono persone normalissime che vogliono fare come noi, vivere, crescere i figli, vivere in una città e in una società sempre più prospera, avere ambizioni, tifare una squadra di calcio normalmente. Comunque, Giovanni da Fermo, buongiorno Giovanni. Buongiorno, volevo solamente dire che a Tunisi, dopo i recenti attacchi, al di là delle moschee, hanno chiuso delle moschee, quelle più radicali le hanno chiuse, quindi anche a Tunisi, paese islamico, le hanno chiuse decine di moschee. Sì. E anche noi forse dovremmo fare molta attenzione. Quelle dove c'è stato, evidentemente proselitismo, c'erano delle moschee in Tunisia dove effettivamente ci sono dei radicalisti che, insomma, che incitano e fomentano all'odio. Matteo, la ringrazio comunque Giovanni. Matteo da Verona, questa era la sua opinione, chiudere anche noi le moschee. Matteo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Non è la questione di chiudere le moschee e di lasciarle aperte. Io ho un'edizione del Corano fatta dalla Epli, penso che sia una delle case editrici più importanti in Italia. E combatte nella via di Dio, nell'indice analitico, c'è una paginetta intera. Se tu segui pedissequamente quello che c'è scritto, devi ardere al fuoco il pilota per la legge del taglione, andare dentro gli infedeli e farne... Cioè, se segui quello che c'è scritto, Ma è Corano, non... è la pasta dell'uomo che è buona, perché se lui legge quello che gli insegna la sua religione, deve mettersi le bombe e a farsi, cioè, non se segue quasi dice, no, lei, ma è chiaro, dice Matteo, se segue letteralmente quello che c'è scritto, come se uno seguisse alcuni passi della Bibbia, soprattutto il Vecchio Testamento, lo applicherebbe. La differenza, però, lo dico io, Matteo, è che effettivamente noi abbiamo avuto l'illuminismo e gli stati laici, mentre la maggior parte, molti stati musulmani seguono, hanno di base la Sharia, che è la legge basata proprio sulle scritture. Le scritture religiose. Professor Vidino, la chiusura delle moschee, ci dice l'ascoltatore, in Tunisia è avvenuto, avviene negli altri paesi, oppure è un qualcosa che serve magari a chiudere le stalle quando i boi sono scappati? Nei paesi occidentali in realtà ciò non avviene, tranne qualche caso isolato, perché da un punto di vista giuridico è molto molto difficile farlo. In Tunisia si possono, paese sì, democratico, comunque con un sistema diverso dal nostro, certe misure possono essere prese. In Occidente, in Europa, ciò non avviene, perché se una persona o anche un gruppo di soggetti radicalizzati si reca in una moschea, legalmente però lo Stato si trova in difficoltà a chiudere quella determinata moschea. Quello che vediamo poi spesso, è vero che ci sono alcune moschee problematiche anche sul nostro territorio, quella che però è la dinamica che vediamo molto spesso è anche fenomeni di radicalizzazione su internet, e il caso di cui stiamo parlando in realtà rispecchia anche questa dinamica, quindi spesso è moschea, amicizie, sì. Insomma, e internet, le cose che si mischiano, e anche lì per internet è molto difficile, cioè questo dibattito, dobbiamo chiudere i siti, dobbiamo chiudere i profili Facebook o Twitter di chi si radicalizza, sì, o no, anche sì. Questo è un grosso dibattito di libertà personali, quanto lo Stato si può spingere per prevenire fenomeni di radicalizzazione, spesso anche solo questo tipo di conversazioni non sono di per sé penalmente rilevanti, sì. E quindi può lo Stato chiudere un profilo Facebook solo perché si parla di Stato islamico? È chiaro, qui c'è il tema, c'è il tema anche della privacy e della libertà di espressione, ma assolutamente. Vorrei tornare un attimo da Fausto Biloslavo, primo l'ascoltatore, anche ancora un messaggio, l'abbiamo detto anche noi, se seguite la Bibbia anche lì c'è la legge del taglione nel Vecchio Testamento, a parte che poi c'è il Nuovo Testamento, il messaggio cambia un pochino, ma poi caro ascoltatore, ripeto, qui Fausto Biloslavo conosce quei paesi perché li frequenta, insomma, qui abbiamo avuto i lumi poi alla fine del Settecento, nell'Ottocento, che ci hanno trasformato no, gli stati in stati laici, e lì invece la Bibbia, la loro Bibbia, il Corano è ancora alla base, no, di tutto, Fausto, quindi sì, questa è la differenza, no? Esattamente, anche se dobbiamo ricordare, volevo sottolinearlo, che la nostra Lady Jihad italiana, l'unica insomma, sì, donna, anche se ce ne sono tante altre europee, assieme alla sua famiglia, l'allegra famiglia insomma della Guerra Santa, sono tutti convertiti, cioè, erano tutti cristiani convertiti, sì, che se poi leggiamo quello che dicono, soprattutto lei dalla Siria, ha quasi un'ossessione nei confronti dei cosiddetti miscredenti, che non sono solo i cristiani come era lei, ma tutti i non musulmani, anche tutti i musulmani, ah, moderati, quelli moderati, quelli magari che bevono l'alcol, quelli che ma neanche i musulmani, anche sciiti, che vengono considerati degli apostati e che quindi vanno uccisi, cioè sono tutti miscredenti. L'abbiamo sempre detto che tra sunniti e sciiti, esatto, c'è una battaglia fortissima, tutti peccatori. Poi per quanto riguarda il discorso delle moschee, allora, non si può fare serva un fascio, ma per esempio questa coppietta italo-albanese che poi partiva per la Siria si è sposata in questo luogo di culto islamico a Treviglio, la parte albanese della famiglia la sapeva, la parte italiana della famiglia la sapeva, chi l'ha sposato sapeva o non sapeva che questo matrimonio era combinato e che questi l'avevano fatto solo e unicamente per partire? Questa è una domanda che rimane un po' così sospesa. Fatemi sentire Aldo da Vicenza. Aldo, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Senta, volevo dire solo questo. Io, sposando una musulmana, praticamente sarei diventato musulmano, ho frequentato le moschee, non è cosa per me, e comunque non ho trovato niente assolutamente di fatto male. L'unica cosa che dovrei dire, dovrebbe la polizia frequentare il centro di Vicenza, dove ci sono certi gruppi di musulmani, i quali io li ho sentiti benissimo, i quali incitano all'odio verso sia i musulmani che non praticano e sia contro. Ma guardi Aldo, ma lei dice quello che stiamo dicendo, cioè io sono convinto che il 99% delle persone che vanno in moschea sono persone per bene, anzi c'è da dire che la maggior parte dei musulmani poi non vanno in moschea, magari non praticano, non sono credenti. Io facevo da cristiano, esatto, come molti cristiani non vanno in chiesa. Non ho mai definito Gesù figlio di Dio, perché se lui è figlio di Dio, anch'io sono figlio di Dio, tutti siamo figli di Dio. Vabbè, adesso entriamo in una questione di dottrina. Sì, comunque lei, Aldo, ci pone questa questione, cioè dire che non ha visto niente di male, ma ha visto invece alcuni gruppi che, sui quali dice qualche controllo ci potrebbe essere. Mi devo fermare qui ringraziando Fausto Biloslavo e il professor Lorenzo Vidino. Ci sentiamo ovviamente alla prossima. Dopo il traffico parleremo un po' di Grecia, questo avvicinamento. Torna con noi Argirios, il nostro amico giornalista greco e rappresentante di Siriza in Italia. Argirios, sono da te tra poco. Eccoci qua. Allora, noi alle 6.30 ogni giorno iniziamo così, con una versione di Zorba il greco. Vabbè, insomma, è tornato con noi, è con noi anche oggi Argirios Panagopoulos, collega, giornalista, responsabile del partito Siriza in Italia, quindi responsabile, rappresentante del partito di Tsipras. Ciao Argirios, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Allora, come va? Visto che adesso si sono ribaltate, intanto non ti voglio rovinare la giornata, non hai visto ancora la copertina di Panorama oggi? No. La copertina di Panorama mette la foto di Tsipras e Varoufakis con due nasi rossi e il titolo Pagliacci. Questo è tutta proprio la copertina, Cioè, come dire... che no, dici, non era una domanda, volevo una tua considerazione su questo. Di quello che scrivono relativamente i mezzi di informazione in Italia non è niente di sorprendente. Il sorprendente sarebbe se facevano qualche servizio più obiettivo. Più obiettivo, vabbè. E dicevano la verità di tutto quello che esiste, ma raccontano queste cose probabilmente perché hanno difficoltà di raccontare anche quello che esiste in Italia. Aiutaci a capire. In Grecia però... non esiste la cosa che il 50% della gente non va a votare. Siamo paesi molto molto diversi. In Grecia esiste ancora la democrazia e la gente partecipa attivamente alla politica. Allora, oggi il Corriere della Sera racconta che la Merkel vorrebbe la vittoria del sì, ovviamente, perché si pensa già, ci sono già i nomi del possibile nuovo governo con cui trattare, cioè far cadere farlo cadere, nel senso che cadrebbe con la vittoria del sì, probabilmente, e poi avere un governo un po' più comprensivo con cui potrebbe essere uno scenario di rischio questo? Secondo me è quella cosa che hanno voluto dall'inizio, dal 25 di gennaio, hanno lavorato su questo, far cadere il governo di Tsipras. Loro non hanno capito una grande cosa, che hanno avuto una grandissima fortuna di avere proprio Tsipras e il suo governo di fronte a loro per risolvere la crisi greca. La Grecia è ingovernabile senza, come possiamo dire, un governo che rappresenta le persone, la maggioranza dei cittadini colpiti dalla crisi. Sì. Che trovano loro un governo fido, un governo vassallo per applicare l'austerità, non esiste in Grecia. Questa cosa la devono capire. Noi da 5 mesi i greci vivono in piena libertà. Che faranno dopo? Se su questo scenario porteranno di nuovo la militarizzazione della piazza Sintagma e cominceranno di bastonare tutta la gente che andrà a protestare perché gli taglieranno gli stipendi e le pensioni, come pensano di risolvere la crisi? Cioè voi insistete su questo punto, cioè se arriva qualche altro governo tagliano stipendi e pensioni? Ma tra l'altro questi sono i desideri di Merkel. Avete visto in questi 5 anni che questi qua hanno beccato una giusta? Io lo dico anche così, capovolgo. Ma perché? Cioè, la, Merkel, la Merkel vorrebbe, come dire, mandare in rovina i greci, farli vederli soffrire, vederli stremati? Non penso, cioè, che sia così crudele. No? Beh, su questo lasciamo stare. La Merkel vuole un governo vassallo per far vincere le elezioni in Portogallo, in Spagna e in Irlanda. O forse vorrebbe che venissero applicate. Ieri ho letto questa cifra: i greci vanno in pensione con una pensione più o meno uguale a quella dei tedeschi, solo che il salario medio dei tedeschi è il doppio di quello dei greci, quindi vuol dire che i greci vanno con l'80% di salario in pensione, i tedeschi solo col 40%. Forse non lo so, queste cose, guardate i numeri che ogni volta sento qua in Italia e poi se vai a verificare non esistono. L'altro giorno qualcuno di stampa insisteva che in Grecia il 25% lavora allo Stato, che praticamente i nostri impiegati statali sono a meno della media europea. Cioè, si sentono delle cose perché è molto facile scrivere tutto il giorno cose assurde. Quindi non è vero che sono il 25% di statali. Stiamo scherzando. Dove trovano questi numeri? Tra l'altro la cosa importante anche sulle cose, perché la Grecia ha truccato i conti per entrare nell'euro, ma la Grecia ha truccato i conti e ha gonfiato il debito per far mettere il paese dentro questo calvario. Su queste cose perché non parlano? No, ma è vero, questi governi precedenti, voglio dire, hanno truccato i conti, questo è un dato di fatto. Oggi in Grecia c'era una grandissima possibilità di avere una pacificazione del paese e andare ad uscire dalla crisi, perché il governo di Tsipras faceva praticamente il necessario per far ripartire il paese, di farlo, di non stare dentro questo circolo vizioso dei debiti per pagare debiti. Questa era la grande sfida di Tsipras. Sicuramente non sono le scelte che vogliono loro, però devono anche rispettare la volontà democratica di un paese, perché se loro pensano di fare di nuovo i tagli, cioè sui tagli siamo stati d'accordo relativamente, non su la montagna. Allora, il modo era il problema. Sì, il modo di imporre ideologica non accettano di tassare i ricchi, le grandi imprese e di fare diversamente, risolvere diversamente. Ma vogliono imporre l'austerità. Argirios, facciamo così, ci sentiamo anche domani se vuoi, Argirios Panagopoulos, così facciamo questo avvicinamento fino al referendum. Tanto noi adesso andiamo avanti fino alle 9.30, ce la facciamo a mettere la segreteria telefonica in conclusione? Sì, la nostra segreteria telefonica. Buongiorno Milan, io sono abbastanza grande per ricordare il regime dei colonnelli in Grecia. Quella fu una vera sciagura. Non cominciò anche così? E quali paure si possono vivere oggi perché una situazione del genere possa tornare? O si può stare tranquilli? Milan, basta con questo cazzo di Marino, dai. Veramente, è una cosa vergognosa. Ciao signor Milano, sei proprio in un bello mastino napoletano. Qui Milanino, ti volevo dire, che voi siete una massa di falsi perbenisti e falsi moralisti. E inoltre, voi intellettuali avete creato un popolo di invertebrati. A Milano, si continua a parlare di Grecia, parliamo della Grecia, di cose serie. Ma è l'isola greca, come cazzo si fa? Milan, quante chiacchiere che dite al mattino, che frastuono. Un bruciaculo deve prendere. No, ma come, caro ascoltatore. Vabbè, 0246524492 la nostra segreteria. Andremo in onda fino alle 9.30, vi racconteremo la storia di una dottoressa che ha preso un farmaco molto costoso da 130.000 euro per l'epatite C e che ora vuole essere rimborsata dallo Stato dopo le 9. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Sebastiano Barisoni. Mentre la crisi greca, come prevedibile, continua a tenere banco, ieri l'Istat ha diffuso alcuni dati sull'economia italiana che indirettamente si collegano però anche all'evoluzione della crisi greca. In primo luogo, visto che oggi partono nelle prime regioni italiane i saldi che arriveranno poi a coprire tutte le regioni di questo paese entro sabato 4 luglio, è interessante notare come l'Istat abbia registrato un aumento dello 0,6% del reddito disponibile delle famiglie nei primi tre mesi dell'anno rispetto a un anno fa. L'altro dato che evidenzia l'Istat è quanto ha risparmiato lo Stato italiano nei primi tre mesi dell'anno grazie ai bassi tassi di interesse, quindi grazie alle operazioni sostanzialmente di Mario Draghi. Il fatto che il nostro spread abbia viaggiato a un livello molto basso nei primi tre mesi dell'anno ha permesso allo Stato italiano di risparmiare 2 miliardi e 370 milioni di interessi sul debito. Infatti la spesa per interessi passivi è scesa del 14%. E qui il legame con la Grecia. L'esito peggiore di una trattativa che dovesse fallire nei confronti della Grecia anche dopo il referendum sarebbe infatti probabilmente non il fallimento stesso dell'euro, ma il riaprirsi dei rischi sui paesi con un alto debito, tra cui appunto l'Italia, e il probabile aumento sia dello spread che degli interessi che dovremmo pagare sul nostro debito, con la conseguenza di vanificare i benefici di questi primi tre mesi dell'anno e di vanificare entrate, o meglio minori spese per interessi assolutamente necessari per il governo, visto che alcune delle entrate fiscali previste nella legge di stabilità sembrano essere quantomeno ottimistiche nelle loro previsioni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Le 9 minuti, come sapete, andiamo avanti fino alle 9.30 anche per la prossima settimana. Cari ascoltatori, di cosa vogliamo parlare adesso? Detto che il numero verde per intervenire è il solito 800 24 00 24. Qualche giorno fa Repubblica racconta la storia di una dottoressa e di sua figlia. Entrambi hanno contratto l'epatite C, la madre con una trasfusione di sangue infetto nel 1984, poi, non sapendo di avere l'epatite C, lo ha trasmesso alla figlia con la gravidanza. Questa donna e sua figlia, visto che lo Stato non passava loro la cura, decidono di pagarsi i farmaci, molto costosi, possono permetterselo evidentemente perché sborsano 134.000 euro. Ma ora dicono: vogliamo il rimborso dello Stato, è lo Stato che deve pagare. E qui si apre una discussione interessante che riguarda la salute di tutti noi, riguarda il welfare pubblico, riguarda l'economia, se volete, e le cifre che ho detto sono cifre importanti. Io voglio salutare l'avvocato Stefano Bertone, che tutela le due persone. Avvocato Bertone, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutte le sue. Allora, intanto la cifra è questa: perché la richiesta di rimborso dello Stato? Perché la trasfusione è una trasfusione di cui è colpevole di fatto il Ministero, questo è il senso della richiesta? Mica solo per quello, in realtà anche una persona che ha contratto un'infezione da HCV per altre cause, che sia un rapporto sessuale a rischio, una tossicodipendenza o altri contatti con il virus, ha diritto a norma della Costituzione di essere tutelata nella sua salute. Se lo Stato può permettere una cura per la sua condizione patologica, lo deve fare indipendentemente da qual è la causa della malattia. E aggiungo io, ma lo chiedo anche a lei, e indipendentemente dal costo di questa cura? E indipendentemente dal costo della cura. È chiaro che se esistono delle cure che lo Stato può procurare alle persone malate e non vengono messe a disposizione, siamo di fronte ad una violazione straordinaria dei diritti costituzionali di tutti i cittadini. E sa che però c'è un dibattito bioetico molto importante a livello mondiale, questo lo allargheremo anche con il professor Remuzzi, che ha i nostri microfoni. Professor Giuseppe Remuzzi, responsabile di ricerca al Mario Negri di Bergamo, buongiorno professore. Buongiorno, grazie di essere voi con noi. Avvocato, allora, altre due o tre domande per approfondire, a capire, cioè cosa chiede la sua assistita o i suoi assistiti, visto che sono madre e figlia, chiedono oltre al rimborso della cura anche un rimborso per danni morali? Dunque, allora, vorrei solo fare un passo indietro. La signora, come ha detto lei, nel 1984 rimane contagiata dal virus dell'HCV per una trasfusione di sangue infetto. Lo trasmette la figlia in gravidanza, ignorando lo stato di positività, e inizia una causa negli anni 2000 contro il governo, contro il Ministero della Salute, per la colpa diciamo dell'aver verificato questo, causato questo danno. Quindi alla base di tutto c'è una negligenza, un'omissione da parte dello Stato. Quando nel 2014 il governo fa una manovra e propone 100.000 euro di risarcimento per chiudere tutti i contenziosi, la signora e la figlia si trovano costrette ad accettare questa definizione, quindi rinunciare alla possibilità di avere di più a fine causa per potersi pagare la cura. Quindi in realtà utilizzano questi soldi dello Stato per pagarsi la cura. Esatto, che quindi è una questione ulteriormente aggravata, perché non soltanto lo Stato non mette a disposizione, ma loro sono costretti a rinunciare a un esito più favorevole della lite per prendere i soldi che immediatamente spendono per curarsi, quindi è un cortocircuito integrale, totale. E quindi a questo punto loro chiedono, oltre che il rimborso della cifra, i danni morali per essere state sostanzialmente costrette dallo stesso Stato a rinunciare alla lite per pagarsi la tutela della salute. Allora, qui è la questione del caso in sé, sul quale ognuno poi può avere un'idea, però come detto il caso secondo me allarga un po' i cordoni del discorso a parlare di un tema bioetico molto, molto centrale di questi tempi. E, professor Remuzzi, è brutale la domanda, ma le chiedo, esiste un limite economico che uno Stato, una sanità pubblica, un welfare pubblico può fissare come soglia da non oltrepassare quando si tratta della salute e della vita di una persona, secondo lei? Beh, esiste un limite perché quello che possiamo fare in medicina è teoricamente illimitato e le risorse sono invece finite. Il nostro Stato, come tutti gli Stati, il dibattito è importantissimo negli Stati Uniti, per esempio, dove che sono molto più ricchi di noi, deve per forza esistere un limite. Tra l'altro c'è stato un equivoco importante in quello che è stato detto finora. La Costituzione tutela la salute, non tutela la cura. Quando parliamo di cura dobbiamo vedere che cura, perché, quanto è efficace questa cura, quanto costa e quanto è giustificato il prezzo. Ammettiamo che quello che fa la signora lo facciano tutti quelli che hanno l'epatite C. In Italia sono 1 milione, vuol dire 68 miliardi al costo di questo farmaco per l'epatite C, sul quale poi ci sarebbe molto da discutere in termini di efficacia. 68 miliardi quando noi spendiamo per tutti i farmaci in questo momento, il nostro Servizio Sanitario Nazionale spende 18 miliardi e spende 110 miliardi per tutto, per tutti gli ospedali. Cioè sarebbe il fallimento del welfare pubblico. Sarebbe la bancarotta del Servizio Sanitario Nazionale e in questo modo non cureremo più nessuno per curare o per dare forse un valore aggiunto a persone con epatite C che eventualmente non rientrano nei canoni di quelli che AIFA e il Ministero della Sanità hanno già deciso che debbano essere trattati, che sono gli ammalati più gravi, per i quali c'è un'evidenza che questo farmaco aggiunge qualcosa rispetto alle terapie che sono a disposizione, perché un altro degli equivoci è quello di pensare che siccome questo farmaco è nuovo funziona meglio di quelli di prima. Sì. Può darsi, ma non è sempre dimostrato per i farmaci. Beh, già, se lei le cifre che mi mette così, effettivamente sono cifre spaventose che fanno riflettere ulteriormente. Magari su questo poi un commento dall'avvocato lo abbiamo. Però, professore Muzzi, la questione seria, appunto, è la questione del rischiare di colpevolizzare un malato per il rischio di una bancarotta del welfare pubblico. Questo è un limite ovviamente sul quale bisogna anche discutere. Ma questa però è una cosa di buon senso, insomma ciascun malato guarda alle sue cose. Se noi curassimo tutte le persone con l'epatite per lasciare tutti gli altri senza la possibilità più di andare in ospedale, di fare un'operazione chirurgica, di essere curati, evidentemente sarebbe una cosa senza senso. Il vero discorso in realtà qui va fatto sul prezzo dei farmaci. Quello che ci dobbiamo chiedere è perché costano così tanto. Vediamo che questa multinazionale che si chiama Gilead, che ha messo in commercio questo farmaco, nei primi 12 settimane di commercializzazione del farmaco ha guadagnato 6,5 miliardi di dollari. È troppo, non è giustificato. Perché questo costo? Loro dicono per la ricerca, in realtà non è solo per la ricerca, ma la ricerca costa il 10% dello sviluppo di un farmaco, più o meno di tutti i farmaci, qualcuno sarà il 20, qualcuno sarà il 5, non c'è veramente nessuna giustificazione. E il vero problema di cui dobbiamo discutere noi è perché certi farmaci costano così tanto. Detto da lei, che tra l'altro, ripeto, il professore Muzzi lavora nell'istituto farmacologico, no? E quindi i rapporti con le case farmaceutiche lei conosce a perfezione. Lei che risposta si dà, cioè, e dà ai nostri ascoltatori, perché costano così tanto alcuni farmaci come questo? Costano così tanto perché l'industria mette in commercio un farmaco nuovo, stabilisce lei molto spesso che funziona, perché per esempio per questo farmaco noi non abbiamo studi indipendenti. Tutti questi studi che dimostrano l'efficacia di questo sofosbuvir sono finanziati, progettati e realizzati dall'azienda che lo produce. Quindi non abbiamo studi indipendenti e allora la industria dice: finché mi pagano chiedo il massimo che posso chiedere. Invece noi dobbiamo chiedere all'industria, questo l'ha chiesto il Senato americano, proprio a Gilead, di essere trasparente rispetto ai costi del farmaco. Ci ha detto hanno guadagnato 6,5 miliardi di dollari, ma in quanto tempo per questo? In 12 settimane. In 12 settimane. E questo farmaco in Egitto costa $11 per una compressa, mentre negli Stati Uniti costa $1,000 per una compressa e in India $1 per una compressa. Lo stesso principio attivo. Quindi vuol dire che noi abbiamo un sovrapprezzo di 1000 volte. È una cosa assolutamente inaccettabile. Abbastanza scandaloso. Qual è la soluzione? La soluzione è una soluzione politica, è molto semplice secondo me. È difficile da realizzare, ma concettualmente estremamente semplice. Tutti gli stati dell'Europa, gli Stati Uniti ha già cominciato un po' con questa interrogazione che ha fatto il capo di Gilead, è stato chiamato al Senato americano per rispondere della giustificazione del prezzo dei farmaci. Cosa possiamo fare in Europa? Tutti gli stati si mettono d'accordo e dicono: noi non rimborsiamo più questo farmaco finché voi non abbassate il prezzo a un costo che sia ragionevole. 11 in Egitto dollari per compressa, 1 in India, facciamo da noi 30, facciamo 100, ma non 1000. E questo è una negoziazione che deve fare l'Europa. È la politica, come al solito, che deve intervenire. Avvocato Bertone, allora, vuole rispondere soprattutto alla prima obiezione che faceva il professor Remuzzi, di dovessimo curare tutti i malati di epatite C, dovremmo spendere 68 miliardi, questa è la cifra che mi sono appuntato, quando spendiamo 18 miliardi per tutti gli altri farmaci in questo momento ogni anno. Sì, io vorrei dire che secondo me il professore si è poi risposto da solo quando ci ha spiegato il vero valore, il vero costo di questo farmaco. Quindi 68 miliardi basati su 1000 euro a confezione diventano 1000 volte di meno basati sul costo indiano. Quindi scendiamo ad una cifra che è largamente copribile dalle spese attuali del Servizio Sanitario Nazionale. Tradotto in parole povere, è sufficiente che il governo italiano e i governi europei impongano un prezzo di mercato pari a quello egiziano o a quello indiano perché questo costo sia tranquillamente sopportabile con le spese attuali. Poi c'è un discorso a monte che non riguarda ovviamente solo il farmaco per la cura dell'epatite C, e cioè qual è la lista di priorità che ha uno Stato al giorno d'oggi. Gli interessa di più spendere in infrastrutture o gli interessa di più prima di tutto tutelare la vita e la salute delle persone? Per me non c'è dubbio che sia la seconda. Sì, la tutela della vita, sì, effettivamente è un gatto che si morde la coda, perché professor Remuzzi, lei dice costa $1000 invece che uno, e quindi alla luce di questo non possiamo permetterci di curarli tutti, però la politica dovrebbe imporsi e farlo pagare 10, 20, 30 dollari. Alla fine il cerino rimane in mano al malato, cioè che di fronte a una politica che non agisce e al costo del farmaco così alto, l'avvocato dice: perché deve pagare il malato? Sì, ma qui partiamo dall'idea, da un'idea molto sbagliata. Intanto non è che se noi abbiamo uno Stato con l'economia che non funziona possiamo permetterci di pagare i farmaci. Questo ragionamento delle infrastrutture verso la vita è un ragionamento molto ingenuo. Noi, se abbiamo uno Stato che funziona e che quindi ha un debito pubblico e un PIL che sono sostenibili, possiamo comprare anche farmaci, se no non possiamo comprare i farmaci indipendentemente dal valore della vita. E però abbiamo i conti che non vanno, la politica che non agisce, riesce a far abbassare i prezzi. Possiamo anche darlo a tutti il farmaco per l'epatite, a tutto 1 milione di persone, quando costa $1. Prima però dobbiamo fare in modo che costi $1, in questo momento appunto non costa $1, quindi questo è un ragionamento che non serve a niente, completamente teorico. Intanto quello che si può dire è che lo Stato cura invece tutti quelli dove c'è un'evidenza, quindi le persone con una evoluzione verso la fibrosi, ma non ancora la cirrosi, che è lo stato più avanzato della malattia del fegato, dove è dimostrato che ridurre la quantità di virus nel sangue, perché questa è l'unica cosa che sappiamo di sicuro fa questo farmaco, aiuta a proteggere dall'evoluzione della malattia. Lì c'è uno stanziamento apposta e è stato approvato dall'AIFA e lo Stato paga tutto questo costo, intanto che non avremo la situazione ideale per cui riduciamo a livello europeo il prezzo del farmaco. Sì. Questo non è riuscito a farlo Obama, non è che lo riusciamo a fare noi. Quando l'avessimo fatto, benissimo, però potremmo... Obama è in grande difficoltà. Però ritorno alla ritorno alla domanda iniziale. Nel momento in cui non riusciamo a fare, fino a tanto, tanto che non riusciamo ad abbassare il farmaco, che facciamo i malati? Trattiamo quelli per cui c'è evidenza che il trattamento sia sicuramente efficace. E non tutti, perché negli altri non ce lo possiamo permettere. E poi anche perché non ce lo possiamo permettere, dal punto di vista. Certo, ma tenete conto che questa è una malattia che ha un'evoluzione molto lenta. Nel caso della signora, mi sembra di capire, non posso entrare in questo caso perché non so i dettagli, ma si è ammalata nell'84, adesso siamo nel 2014. C'è una malattia che in generale ha un'evoluzione molto lenta e non è tanto la riduzione della carica virale nel sangue quello che condiziona il benessere di questi pazienti, ma il tipo di evoluzione della malattia, che è diversa a seconda della genetica di questi pazienti. Quindi questo è un terreno molto complicato e molto dinamico. Avvocato, voi quanto ha già quantificato la cifra di quello che potrebbe chiedere come risarcimento la signora, la sua assistita? Posso immaginare che noi chiederemo, oltre al rimborso del costo materiale del farmaco, anche la restituzione, o meglio il risarcimento di quella che sarebbe stata la chance di ottenere un risarcimento maggiore in corso di causa. Io non posso quantificarlo, e più ovviamente l'offesa di essere stata costretta a rinunciare ad una causa, lei e la figlia di 7 anni, che ha condizionato, diciamo, basata su un evento che ha condizionato la loro intera vita, per pagarsi la salute. Questo non è attualmente, non ho ancora effettuato un calcolo, ma sicuramente sarà un calcolo molto alto. Vorrei aggiungere una cosa, è che lo scopo della nostra azione, che tra l'altro non sarà limitato soltanto a questa, alla nostra assistita, alla figlia, ma anche ad altre persone, è chiaramente diretto per loro, ma ha anche naturalmente una finalità di impulso verso quello di cui stiamo discutendo, cioè permettere... Agisca la politica per far abbassare il prezzo dei farmaci. Io non voglio neanche dire la politica, voglio dire gli enti dello Stato, gli enti governativi, perché la politica è una definizione troppo vaga per quanto mi riguarda. Io intendo il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le procure, dove ritengono che sia il caso, e si attivino per verificare se il costo è parametrato ad altri paesi, se è corretto, se è congruo, e qualora siano condannate a risarcire il costo speso dai pazienti privatamente, si rendano conto che questa non è sostenibile come soluzione, quindi impongano all'industria farmaceutica un costo che sia reale e non... Questo è l'ideale, qualcosa a cui si tende, anche se il professor Remuzzi ci dice che non ci sta riuscendo Obama e non è facile. Io mi devo fermare qui e vi ringrazio per questa pagina, avete raccontato tante cose anche interessanti di un qualcosa che magari non tutti conoscono perché non si è addentro a questa tipologia di notizie. Ringrazio l'avvocato Stefano Bertone, così come ringrazio per la solita chiarezza il professor Giuseppe Remuzzi, che è stato con noi. Ci fermiamo qui anche per oggi. Da Peter Bescapè, che è in regia, e Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, insieme al sottoscritto Alessandro Milan, l'appuntamento è rinnovato a domani. Noi alle 6.30 siamo qui puntuali. Ci potete attaccare! Mi sono spaventato, Peter. Mi hai spaventato. Attaccare! Adesso sono un po' più pronto. Ci potete seguire ovunque, su Facebook, su Twitter. Io sono Alino Milan su Twitter. Potete seguire il mio profilo. C'è anche il profilo di 24 Mattino. Attaccare! Ormai dai, siamo tutti abituati. Puoi rimetterlo anche una quarta volta domani. Attaccare!